Job 24. Il benessere e la produttività dipendono anche dall'ambiente in cui si lavora, dagli arredi, la luce, l'aria. Ormai è assodato che spazi non rumorosi, rilassanti, oltre che adeguati da un punto di vista ergonomico, consentono di svolgere meglio la propria attività. E si propone proprio di diffondere la cultura della qualità e dell'innovazione nell'ambiente di lavoro il premio Workplace Qualità e Innovazione, indetto dalla rivista US Ufficio Stile. E il vincitore, da poco decretato, è Antonio Citterio per il progetto della sede di Ermenegildo Zegna a Milano. Ma qual è l'ufficio ideale? Renata Sias, direttore della rivista US Ufficio Stile. Le nuove tendenze per quanto riguarda l'ambiente di lavoro sono sicuramente quelle di creare spazi che non siano i tradizionali uffici, ma ambienti che assomigliano sempre di più o alle case, o alle discoteche, alle aree lounge degli alberghi. Teniamo presente che oggi il lavoro non è più scandito dal ritmo del cartellino e quindi anche il confine fra vita privata e vita lavorativa è sempre più labile. E poi va detto che l'utente finale è diventato più evoluto, così come vuole più benessere nella sua casa, lo apprezza anche nel suo ufficio, quindi per quanto riguarda l'illuminazione, l'acustica e il benessere anche di qualità dell'aria, richiede qualcosa di più. Dal punto di vista psicologico, per esempio, è importante anche la presenza di verde, il rapporto con l'esterno, le piante, i profumi, la qualità illuminotecnica, quindi luce in riflessa, luce più calda, luce più morbida e anche che varia magari nelle varie ore della giornata o nei diversi ambienti, quindi non c'è più questa monotonia fatta di plafoniere tutte uguali integrate, ma anche lì si cerca proprio la flessibilità, ecco, è un tema che è ricorrente in tutti gli spazi e in tutti gli ambiti del lavoro. Cosa devono considerare i datori di lavoro che vogliono offrire ai propri dipendenti, ai propri collaboratori l'ambiente migliore? Le persone hanno bisogno di relax, di non avere fattori di stress, perché già quelli li porta il lavoro, e quindi se l'ambiente contribuisce a creare benessere, relax e anche creare interazioni, quindi il luogo di lavoro è un posto dove si cresce insieme e quindi il modo in cui è progettato può favorire oppure rendere più difficile gli incontri e l'interazione o gli incontri informali, quindi anche in questo senso la gente ha bisogno di questo. Grazie Renata Sias, e chi vuole ispirarsi può dare un'occhiata alle fotografie dei progetti migliori presentati per il concorso Workplace Qualità e Innovazione al sito www.ufficiostile-online.it. E prima di salutarci vi ricordo l'uscita domani di Job 24, le pagine dedicate al lavoro del mercoledì del Sole 24 Ore. Noi ci sentiamo domani, Job 24 è radio24.it per scriverci. Un saluto da Roberta Pellegatta. I hold, I hold, I hold.